piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Nel momento in cui abbiamo visto uccidere Floyd, essendo noi umane, abbiamo messo da parte il complotto perché è una cosa troppo drammatica, troppo, ci ha toccato troppo forte. Però subito dopo abbiamo visto il video in cui quelli della CNN vengono arrestati. Io non ho mai visto una roba tanto falsa come quella, ragazzi. Non so voi, in questi anni ne abbiamo viste tante cose false proposte dal sistema, ma a questi livelli mai. La CNN, l'acerrimo nemico di Trump, no? Quella CNN che Trump ha descritto come la peggiore fabbrica di fake news dell'America. E allora capisci che è ancora più drammatica la situazione, perché Floyd non è l'ennesima vittima di questi suprematisti, di questi maniaci poliziotti americani. No, c'è di più. C'è la volontà di quella fazione avversa a Trump di far scoppiare guerre civili. Tutto sembra tornare, tutto sembra quadrare. Anche l'episodio che sta scuotendo non soltanto gli Stati Uniti d'America, ma tutto il mondo, che sono i disordini nati attorno all'uccisione da parte di un poliziotto del signor George Floyd. Ieri sono stati i funerali, si è vista la bara, sono visti il commiato da parte di tutte le autorità. Beh, questo non è bastato comunque a creare dietro questo episodio comunque una dietrologia. Non voglio entrare in merito a chi, come Francesco Salvati, che in questo canale YouTube racconta una parte di questo complotto, diciamo in forma più blanda, che dice che tutto sommato è stato un omicidio reale, ma costruito per cercare di minare la prossima candidatura al presidente Trump alle elezioni americane. Ma esiste molto di più. Ho visto su vari canali portata avanti una teoria che negli Stati Uniti sta cominciando a prendere piede, per cui addirittura ci sia qualcosa di molto più clamoroso. Addirittura il poliziotto autore di questo crimine sarebbe nient'altro che un attore. Lo dimostra il fatto che lavorava nello stesso locale notturno assieme alla vittima, che in realtà avrebbe creato una sceneggiata. I vicini di casa non hanno mai saputo lui facesse il poliziotto, sono stati trovati degli sceneggiati televisivi in cui faceva la parte del poliziotto come attore. La stessa terribile mossa di strangolamento che viene messa in atto e che uccide George Floyd in realtà viene vista come una mossa che non sia nei protocolli atterramento di possibili sospetti da parte della polizia americana, ma in realtà venga addirittura dall'esercito israeliano e quindi è un agente. Ma andando ancora avanti, sono un'infinità, insomma, di piccole testimonianze e pezzetti, per cui sta prendendo corpo in realtà l'idea che sia tutta una sceneggiata. Addirittura il fratello di George Floyd, che ha dichiarato dichiarazione, potrebbe essere Floyd stesso, perché gli sembra strano che ci sia un fratello gemello. Quindi sarebbe stato simulato l'omicidio da parte di due attori che erano d'accordo fra di loro per creare questo grande disordine e quindi infastidire la prossima candidatura del presidente Trump. Ora, tutto questo naturalmente fortemente condizionato da quello che è il nostro bias cognitivo. Io penso che sia una madornale fantasiosa, anche se non divertente, costruzione. Per altri dicono: vedi, è la prova che noi cercavamo. Infatti lo vedo dalla connotazione dei canali che stanno portando avanti questa teoria, che noi cercavamo per farvi capire che dovete svegliarvi, dovete aprire gli occhi, è tutta una grande mistificazione. E oggi vorrei chiedere al mio pubblico, partendo dall'analisi del caso del cosiddetto false flag, bandiera nemica, è un termine per dire quando c'è un'operazione di intelligence o di strategia militare per cui io isso la bandiera del nemico in un campo in cui opero io, in realtà poi do la colpa al nemico di quello che ho fatto. Ecco, una falsa bandiera sarebbe il caso Floyd e È funzionato talmente bene che tutto il mondo è indignato rispetto a quel gesto, che in realtà sarebbe una grande costruzione teatrale, come lo sbarco finto sulla Luna e tutte le altre cose di cui il mondo complottista ama, diciamo, fare la sua letteratura. Io parto da questo caso e cerco in qualche maniera, se possibile, di definirlo in dei termini concreti, oggettivi, però vorrei che oggi mi diceste, senza reticenza, senza timore, senza... Io non me la prenderò con voi, non vi risponderò male e non farò il saputello. Vorrei capire quanti di voi sono convinti che esista un filo di storia reale, concreta, oggettiva, che corra parallelamente a quella che è l'informazione tradizionale. Oggi abbiamo avuto tante testimonianze che questa narrazione prende anche corpo in luoghi ufficiali della politica, delle istituzioni, ma non soltanto in Italia, in tanti altri paesi. Vorrei sapere quanto voi, come rappresentanti dell'opinione popolare, siete convinti che esista veramente. E intanto vado subito al finto caso Floyd e vorrei capire esattamente quali sono le certezze, quali sono le possibili costruzioni rispetto a questa vicenda. E mi faccio aiutare da una persona che ha dedicato il suo impegno professionale in maniera precipua proprio alla disvelamento di quelle che sono le narrazioni fantasiose. È responsabile del progetto Fact Checking di Open Online, David Puente. Buongiorno Puente. Buongiorno a tutti. Oggi ti risollevo perché so che tu non ce la fai più a parlare di coronavirus, visto che sono due mesi che stai smentendo le bufale sul coronavirus. Ti do fresca fresca una nuova possibilità di osservare. Tu hai sentito parlare, visto e osservato il fatto della falsa bandiera del caso Floyd. Cosa ne pensi? Guarda, in questo preciso momento in cui parliamo ho appena pubblicato l'articolo su open.online. Proprio su questa sono contento qua. Adesso lo apro e così lo commentiamo assieme. Sono contento di averti ispirato questa mattina, avevo dei dubbi, dico, sentiamo Puente su questa cosa che ne dice. Però guarda, io l'ho vista, la vedo crescere, me l'hanno segnalata al mio pubblico, poi l'ho visto su Padania Online, poi ho visto un importante, diciamo, profeta di bufale che è Blondet, che ha pure l'ha fatto nel suo pezzo, nel suo spazio web, ne ha fatto verità, quindi vorrei capire esattamente cosa c'è di accertato rispetto a questa vicenda. La storia è veramente affascinante perché... È divertente, se non fosse tragica sarebbe divertente. Se non fosse tragica, se non stessimo parlando appunto di purtroppo una persona che è morta. Quindi ci ritroviamo qua in una di quelle classiche situazioni in cui appunto col bias cognitivo, con la convinzione che abbiamo, diciamo, ma scusa, mi sembra così strano che si sia creato tutto sto disordine per un omicidio, eccetera, e poi ti ritrovi che il nome dell'agente di polizia che ha ucciso Floyd si trova all'interno di un sito che si occupa praticamente di tracciare tutte le presenze televisive, cinematografiche dei vari attori in giro per il mondo. E quindi dicono, ma allora scusate, ma come mai c'è questo nome ed è identico, che sia un caso di omonimia? E poi a questo punto dici, ma forse in verità lui era un attore e quindi che non era neanche un poliziotto, tanto che tra le comparsate che avrebbe fatto in televisione avrebbe interpretato appunto un poliziotto dove nel Minnesota. Si citano tre episodi di telefilm in cui Derek Chauvin faceva proprio il poliziotto e hanno intervistato i vicini di casa che dicono, ma mai saputo che il nostro vicino facesse il poliziotto. Infatti lui era sposato con una specie di miss internazionale, qualcosa del genere, quindi era legato al mondo dello spettacolo. Fanno sempre questi collegamenti qua, poi se una persona è particolarmente riservata, non è che tu a questo punto, solo perché l'idea che il vicinato sa tutto di te, cioè ci sono i miei vicini di casa che non sanno per esempio a volte chi sono, per dirti, cioè non è che mi faccio gli affari, io non so neanche come si chiama il vicino di casa mio, per dirti, no, non mi faccio gli affari degli altri. Più o meno siamo nella stessa situazione. Però la teoria appunto che, ma tutti quanti dovrebbero conoscere tutto di tutti, è un po' campata per aria. Però andiamo nella prova madre, questo account, questo profilo sul sito imdb.com. La cosa curiosa è che questo account, questo profilo è stato creato 3 giorni dopo la morte di Floyd. Quindi, e tu ti domandi, ma l'hanno fatto apposta per far credere che sia un attore? A questo punto tu ti dici, come fa a creare una persona un profilo su questo sito che dovrebbe essere attendibile? In questo sito chiunque può creare una voce, chiunque può proporre una modifica, può aggiungere. Magari non so, ho visto questo attore nell'episodio di nei Cesaroni, no? Allora, ammetto che Derek Chauvin è stato su noi Cesaroni nel 2019, che ne so. E ognuno lo può fare. Io mi sono registrato e ho proposto anche una modifica del profilo, tanto per dire. La cosa curiosa è che poi i due riferimenti che ci sono in questa lista di appuntamenti, di contributi televisivi che avrebbe fatto, sono due programmi televisivi, uno che si chiama Today e l'altro The Dan Bongino Show, in cui semplicemente viene riportato il video dell'omicidio. Quindi non è che interpretasse un poliziotto, era proprio il video dell'omicidio. Sono due programmi televisivi in cui hanno commentato. Diciamo, c'è stata una volontà precisa a creare la bufala. Chi non ha molte altre cose da fare e vuole già, sa già gli strumenti del convincimento, ci ha lavorato sopra di fino. Esatto, una volta che hanno visto questo account, questo profilo su questo sito, hanno aggiunto delle interpretazioni, tanto che ci sono degli archivi digitali in cui è possibile vedere anche le modifiche di questo profilo, e vediamo che il 1 giugno c'erano tot comparsate, il 2 giugno erano aumentate di 4 e così via, fino a diventare 14 in data odierna. Quindi c'è qualcuno che si sta divertendo a proporre altre presenze televisive per farlo credere un attore televisivo. È bellissimo. Ma pensate. Sì, sì. Io ho visto anche, mi sono andato a guardare oggi, ma semplicemente basta guardare i quotidiani di oggi. In vari quotidiani c'è una presa di posizione da parte di alcuni movimenti per la difesa dei diritti umani per togliere dal manuale operativo della polizia di Minneapolis il check-hold, mi sembra che questo strangolamento, questa mossa di strangolamento che in realtà c'è in quel manuale. Nei protocolli della polizia, in casi estremi, quando c'è una persona particolarmente pericolosa, c'è questa tecnica di togliergli l'ossigenazione al cervello, che è una tecnica di strangolamento di arti marziali fatta in varie maniere, col ginocchio, con il braccio, via dicendo. Addirittura sono le cifre, è stata usata a Minneapolis 237 volte ultimamente, in cui 44 persone sono svenute. Quindi che sia una mossa segreta degli agenti sionisti, come viene scritto in qualche sito, perché c'è un militare israeliano che blocca un manifestante con il ginocchio, è facilissimo creare poi l'idea della mossa segreta che i poliziotti non usano. Basta che tu citi sionismo e a quel punto si aprono le porte. C'è tutto dietro. Esatto, e poi vedi anche la cosa affascinante, che magari negli stessi articoli che vengono diffusi online trovi sia una teoria sia l'altra che smentisce quella di prima. Cioè, prima è un attore e poi cos'è adesso? È diventato un esperto militare sionista? Cioè, a volte non si decidono neanche loro su cosa andare. No, può essere che, diciamo, che chi assolda i creatori di disordine sionisti li sceglie attori, così sono più bravi a fare la loro parte. Potrei risponderti anche in questa direzione. È possibile, ma sai quante ce ne sono che si possono creare? Cioè, la fantasia è infinita. No, la cosa che trovo veramente più assurda è del possibile fratello gemello. Quella dei gemelli torna spesso nelle teorie complottistiche. Il fratello di Floyd, che ha parlato anche con parole di riappacificazione, in realtà sarebbe Floyd, il suo gemello, guarda caso c'ha un gemello, quindi è lui che parla, non è mai stato ucciso, è stato pagato per fare quella parte, per impersonare quella parte. Però guarda, credimi Davide, se diventa plausibile che lo sbarco sulla Luna, ancora ci crede, è stato fatto in un set televisivo, capito? Mi sembra ancora più facile creare la storia attorno a questo. Ci sono altri elementi che tu trovi ricorrenti comunque in altri precedenti complotti, in questa storia, che ancora, guarda, l'abbiamo anticipata, sta prendendo corpo. Tu vedrai che cominceranno a parlarne tra un po', perché è troppo succulenta la storia per lasciarla così. Il complotto contro Trump, che gli aizza contro, diciamo, il mondo intero, usando degli attori e inscenando un omicidio. Guarda, non è niente di nuovo, anzi, non mi sorprenderebbe vedere che la foto del poliziotto venga confrontata con altre scene, magari di atti di terrorismo in passato, per dire, ecco, era lo stesso attore che aveva inscenato anche quelle le altre scene di False Flag, no? Ma è una cosa che si ripercorre da anni. Non solamente lì, ma anche in Italia, per dirti, cioè in Italia abbiamo anche una serie di complottisti che ci sono ancora quelli che credono che non sia mai morta la Solesin, per dirti, che dicono che sia un'attrice, che non è, che, cioè, cose di questo genere le troviamo non solamente all'estero ma anche in Italia. Poi abbiamo la fantastica capacità italiana, da questo punto di vista dei complottisti, neanche di crearsi qualcosa di locale, cioè di nostro, italiano, come forse come teoria di complotto, ma vanno di solito a copiare quelle che dicono gli altri all'estero. Quindi non mi cioè, l'unica maniera per monitorare questa cosa è anticiparli, andare a vedere cosa scrivono all'estero per capire cosa diranno domani. Ecco, ci fermiamo soltanto un istante, intanto rinnovo la mia richiesta al nostro pubblico, 800240024, voglio che mi diciate, senza problemi, senza reticenze, quali sono le vicende che secondo voi vengono tenute nascoste, che noi impropriamente chiamiamo complotti, ma in realtà fanno parte della parte genuina della storia. Ci fermiamo un istante. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Melog. Quando Conte telefona a Bill Gates sulle nostre spalle prendendo 140 milioni, decide di iniettarci il mercurio nelle nostre vene collegate ai 5G e diventeremo dei piccoli robot. L'Istituto Superiore della Sanità e l'Istat mi dicono che solo per il coronavirus in Italia, su 29.000 morti, ne sono morti 100, ne mi consente che io comincio a essere molto molto attento, che mi stanno prendendo in giro. E ci sono parecchi professori a livello internazionale, mi hanno mandato relazioni, generale, la pandemia è una cosa falsa, perché questi ogni 4 anni se ne tirano fuori una. Oh, 800240024, ringrazio Regia Milano Peter Bescapè, in assistenza Alessandro Marco Tulli, da Roma Alessandro Chiappini e Fabrizio Intonti. Stiamo parlando del false flag, le false bandiere, e il caso più eclatante sconfessato questa mattina da David Puente direttamente su Open a tempo reale è quello che è la storia, che in realtà l'episodio che sta incendiando il mondo fosse una sorta di sceneggiatura fatta da attori, messa in scena da attori per colpire il presidente Trump. Quelle che avete sentito invece sono altre notizie importanti di complotti che vengono svelati a Piazza del Popolo a Roma, le truppe del generale Pappalardo, parla una signora e già i complottisti dicono cosa c'è in quella borsetta che tiene la signora in mano, non si sa, che dice che in realtà la realtà è che ci mettono il mercurio nelle vene con i vaccini, poi interviene anche il 5G a far attivare non so questo mercurio e poi diventiamo dei piccoli robot con probabilmente il microchip che ci metterà Bill Gates d'accordo con Conte. Il discorso fila. Se vogliamo vedere una grande congiura che parte dalle sci chimiche, passando per i rettiliani, arrivando fino al 5G, tutto torna, se no altrimenti, come David Puente fa tutti i giorni su Open Online, bisogna un attimo guardare con attenzione. Sono belle le narrazioni leggendarie, sono sempre molto più affascinanti. La menzogna è sempre estremamente più variegata, più articolata della verità, che nella sua crudezza, nel suo nitore molte volte sembra qualcosa che non appaga il nostro desiderio di complessità. E quindi, David Puente, ho visto che nella tua pagina su Open Online avevi già lambito in qualche maniera alcuni casi Trump e alcuni casi legati alla vicenda Floyd. Ad esempio, la foto di Donald Trump, per dire ce n'è per tutti, Donald Trump che aveva la Bibbia in mano esattamente come Hitler, nessuno aveva considerato poteva essere una grande bufala, e così era infatti. No, infatti ci sono cascati parecchi, sia in America sia in Italia, anche giornalisti anche italiani. La cosa curiosa appunto è che si trattava di una foto appunto presa da Trump e con la Bibbia in mano, e che gli hanno praticamente tagliato con fotomontaggio, gli hanno tagliato la mano con questa Bibbia e gliel'hanno messa in mano a Hitler. Quindi poi c'erano gli utenti che dicevano: ma come fai a dire che è la stessa mano e la stessa Bibbia? Allora a quel punto ho detto: vabbè ragazzi, faccio anche una gif animata in cui vi faccio vedere i ritagli e come viene fatta la cosa. Devo fare anche questa volta per spiegarlo. Vedi quanto incide, quanto incide questo bias cognitivo, cioè il nostro pregiudizio che vuole in qualche maniera andare incontro a quello che è la nostra convinzione. Ora, può essere possibile che una persona mediamente intelligente può pensare che esista una specie di gesto simbolico che si tramanda fra efferati dittatori di tenere la Bibbia in mano con quel pollice davanti, con la stessa posizione che passa in maniera, diciamo, invariata da Hitler a Trump? Cioè, prima di commentare nei social che schifo, Trump come Hitler, a me Trump non sta per nulla simpatico, però devo dire che la verità in certi sensi è una vittima che bisogna comunque in qualche maniera riscattare. Anche su un arresto di un agente dell'FBI è stato detto qualcosa, tu l'hai prontamente smentita questa vicenda. Sì, era un video di un ragazzo di colore, un ragazzo nero che appunto viene fermato, arrestato dalla polizia e poi dopo che hanno visto i suoi documenti si fermano e lo rilasciano. E la cosa curiosa appunto è che secondo qualcuno lui sarebbe un agente dell'FBI e quindi non potevano arrestarlo, no? In verità, se ascoltavate bene l'audio del video e se cercavate anche un po' online riguardo a questa storia, trovavate che questo ragazzo qua in verità era stato vittima in un certo senso di uno scambio di identità, nel senso che i poliziotti stavano cercando un ragazzo nero con simile a lui, con nome e cognome, per un caso di aggressione. Quindi l'avevano scambiato per l'altra persona e quando si sono resi conto dai documenti che non era la persona che stavano cercando, l'hanno subito rilasciato. E invece fa molta più scena pensare che i poliziotti, d'accordo probabilmente nel grande complotto, rilasciano il ragazzo perché è nero, quindi lo rilasciano. Come anche le foto sono state fatte vedere, le avrei viste, dei poliziotti che inermi di fronte ai saccheggi, vedi, non fanno nulla, li aiutano, quando probabilmente è una strategia che hanno messo in atto di non intervenire, ogni volta dovrebbero creare uno scontro con una persona che porta via un pacco di scarpe. Penso che sia questo il motivo per cui vediamo macchine di poliziotti che non intervengono di fronte alle persone che saccheggiano i negozi. Ma c'è anche in Italia, per esempio, se ci sono stati degli assemblamenti in questi giorni con delle persone che hanno letteralmente insultato in faccia i poliziotti, dicono: ma perché i poliziotti non reagiscono? Perché non lo fanno? C'è chi vorrebbe che magari gli arrivasse una manganellata a questo che l'ha insultato, ma siamo di fronte comunque a delle situazioni in cui la polizia e le forze dell'ordine operano in un certo determinato maniera per evitare magari ulteriori scontri, per evitare ulteriori problemi. Non sappiamo noi quali sono le strategie per quali le forze dell'ordine intervengono in una determinata maniera o meno. Dopo gli esperti in epidemia scattano gli esperti in ordine pubblico, in contenzione di ordine pubblico. Abbiamo gli esperti anche di Soros. Cioè, per dirti, prima per dirti a quanto arriviamo nel complotto, no? Prima abbiamo sentito Pappalardo, i gilet arancioni che dicono cose in piazza che non stanno vincendo in terra, e poi ci ritroviamo la Nuova Padania che in un articolo intitolato "Quel colore arancione di Pappalardo che ricorda molto Soros". Per le rivoluzioni arancioni, l'Ucraina, eccetera. Quindi allora dietro il colore arancione c'è qualcosa quindi che si nasconde. Quindi anche Pappalardo è un agente, praticamente, un agente. Capisci quanto è affascinante il mondo del complottismo? A quali vette riusciamo ad arrivare? Beh, devo dire che in questo momento la vera epica contemporanea in realtà è fatta dai complotti, perché il resto è banale realtà. Sentiamo qualche ascoltatore. Maurizio, provincia di Torino, buongiorno. Buongiorno, chiedo scusa al Maurizio. Disturbo. Mi sente? Un piacere. Sì, la sento, vada. Volevo semplicemente dire che gli americani comunque, al di là che questa è assolutamente una bufala che può pensare che sia stato un complotto l'omicidio della persona di colore, ma gli americani bisogna ricordare che per riuscire ad accedere a Cuba, quando era ancora sotto la dominazione spagnola, è arrivato al punto di farsi autoaffondare, la corazzata Santa Cruz, in una visita praticamente che era una visita di cortesia con tutti i suoi marinai a bordo. Tant'è vero che Guantanamo è diventata americana proprio per il suo intervento contro la Spagna, con la motivazione che praticamente erano stati gli spagnoli ad affondare la loro corazzata. Quindi secondo lei c'è una predisposizione etnica, che gli Stati Uniti sono dei grandi costruttori di false bandiere per gestire meglio il potere assoluto? Qual è il motivo? Ma le dico di più, è semplicemente per avere una base d'appoggio in un punto in cui loro strategicamente non c'erano, erano in Filippine, in altre parti. E le dico di più, gli americani, o meglio il governo americano, per convincere l'opinione pubblica che era contraria a entrare guerra, nella seconda guerra mondiale, è arrivata al punto di ignorare la dichiarazione di guerra che l'ambasciatore giapponese ha consegnato 10 giorni prima di Pearl Harbor. E sa cosa le dico? Che quando c'è stato l'attacco di Pearl Harbor, praticamente Pearl Harbor era la base navale di tutta la flotta delle portaere. Una cosa mi interessa, queste sue dichiarazioni poi fanno parte di un altro tema. Lei perché è così interessato nella scoperta della storia parallela? Quali sono le sue fonti? Ma perché? Le dico di più. Ad Danzica i tedeschi... Sì, no, non voglio sapere altri episodi, sennò finisce domani. Maurizio, se mi tira fuori tutto... Parli di lei, non voglio sapere. Allora, non sopporto fin da quando ero giovane, io adesso ho 56 anni, chi mi racconta le cose per farmele girare... Ecco, ma lei dove si documenta, Maurizio, per avere tutte queste realtà sulla storia parallela, dove si documenta? Guardi, quali sono le sue fonti? Io sono un grandissimo lettore, sono un grandissimo storico, sono un collezionista decisamente storico, appassionato di storico è uno che studia la storia? No, io ho detto, leggo libri di storia, non mi mai... E poi mai mi posso ritenere uno storico? Mica voglio usurparle il suo diritto. Ma mi piace andare a prendere le chicche, capisce? Cioè, quelle cose qual è, diciamo, il filone di letteratura che racconta queste storie? Perché lo ignoro, glielo chiedo per mia ignoranza. No, dove bisogna andare a cercare? Guardi, io l'avevo visto in un vecchio documentario, le parlo dei anni fa, quando ho saputo quello di Pearl Harbor, dell'ambasciatore del... Questo. Quindi lei memorizza via che vede dei disvelatori di fantasia, lei li memorizza, molto chiaro. Leonardo da Bari. Sì, buongiorno, grazie per avermi invitato. Non mi sorprende nemmeno vedere gente che possa pensare che l'omicidio di Floyd, cioè da parte della polizia, sia una cosa falsa, architettata per aiutare chiunque, cioè, voglio dire, perché non la sorprende? Non mi sorprende perché se c'è gente, e le assicuro che non sono poche persone che pensano che la terra sia piatta e che l'Australia non esiste e che arrivi alla fine del mondo, poi c'è l'effetto Pac-Man e rientri dall'altra parte, e ne sono fermamente convinte. Lei dice, si può esistere il terrapiattismo come dottrina condivisa, esatto, e come scienza, diciamo, accertata da un'infinità di persone, se c'è il terrapiattismo, dietro il terrapiattismo può starci di tutto. Ci fermiamo un istante, interessante. Melog. La nostra preoccupazione è che la comunità scientifica non è concorde nel affermare quanto siano pericolose le esposizioni a questo tipo di tecnologia. Fino a che noi non abbiamo dati scientifici, noi non le vogliamo sul nostro territorio. In piena emergenza pandemia, ossia il 22 marzo 2020, Trump ha pubblicato sul sito della Casa Bianca il 5G Security Act, in cui è categorico. Avverte in pratica gli alleati che il 5G è una misura indispensabile per gli americani ed è una questione di sicurezza per gli Stati Uniti e per i paesi dell'Alleanza Atlantica. 800240024, andiamo nella chicca delle chicche, nella ultima delle storie che ci appassionano. Il complotto attorno al 5G, del quale sono anche io, non so per quale maniera, incolpato. Esiste un filone di pensiero che, mettendo sempre i cerchietti rossi, che sarebbero la prova evidente che c'è un complotto dietro, anche sulla mia faccia, sui numeri delle mie trasmissioni e su alcune mie ricorrenze, dicono che anch'io sono tra coloro che tendono a dominare l'umanità attraverso il 5G. Su questo noi chiediamo qualche approfondimento e qualche interessante riflessione a una delle persone che maggiormente in Italia si occupa appunto di fact-checking. Lo fa su Open Online David Puente, che è anche autore di un libro, Il grande inganno di Internet, l'ultimo libro, False notizie, veri complotti, come difendersi, un libro del 2019. David Puente, su questa cosa del 5G ti sarei applicato sicuramente anche te, ma da quale scaturigine può venire fuori? parte dalle vecchie onde elettromagnetiche, telefonini che bruciano il cervello, dai microchip, da tutta una serie di tecnologie che vengono accusate di essere strumenti di dominio occulti, o c'è qualcosa di più? Perché adesso anche il coronavirus che viene dal 5G, che non riesce a capire nemmeno il nesso fantasmagorico per cui possa essere credibile. Guarda, sono tutte cose che provengono dal passato. Cioè partiamo dal wireless per poi arrivare al 4G e poi a questo punto siamo al 5G, c'è stato l'upgrade del complotto. Cosa succede? Che dalla paura delle persone in quello che è nuovo, quello che insomma non si conosce, nascono poi tutte queste teorie. Basate su cosa? Basate sul non scientifico. Perché se veramente il 5G, il 4G, il wireless fanno un determinato danno, bisogna dimostrarlo a livello scientifico, come ci insegna appunto la comunità scientifica, non attraverso studi pubblicati da persone che magari lo pubblicano nella rivista. Ma il nesso con il Covid, perché non capisco come un virus può essere legato a un protocollo di trasmissione. Che cosa c'entra il virus? Infatti, qua abbiamo le diverse teorie. Da una parte dicono che il 5G abbassi il sistema immunitario, quindi a quel punto il virus può colpirci, ma a questo punto dovremmo essere colpiti da chissà quali altre malattie, anche non solamente il Covid. E poi c'è quella in cui vorrebbero dire, ma scusate un attimo, magari il virus è stato fatto in laboratorio, ingegnerizzato, in maniera tale che con il segnale del 5G si attiva e a quel punto ti colpisce. Queste è quello che dice la signora dalla tribuna di Piazza del Popolo, che tutti applaudivano, facevano il segno del dito medio, come dire a noi non ci fregano. Lei dice, prima mettono i vaccini col mercurio, così ci indeboliscono, poi con il 5G ci attivano il virus e così ci robotizzano totalmente. Sentiamo qualche telefonata. Gregorio, provincia di Vicenza. Sì, buongiorno Nicoletti. Io volevo solo aggiungere una piccola considerazione. Si sarebbe dire che se effettivamente noi siamo sono proliferati, diciamo, questi mezzi anche attraverso si generano complottismi e quindi prolifera anche il complottismo in generale, noi siamo stati effettivamente ingannati in vari modi dai mezzi ufficiali, e possiamo pensare ad esempio a quello che è accaduto con la guerra in Iraq e le armi di distruzione di massa, le rivelazioni di Snowden. Sappiamo che c'è la sorveglianza di massa, non è una cosa finta, ma diciamo è vera e non viene negata. Dice delle cose che indubbiamente hanno senz'altro un senso. In tutte le guerre, in tutti i conflitti, la prima vittima è sempre la verità, perché stabilire degli elementi di disturbo e di disinformazione fa parte proprio della tecnica per vincere una guerra, qualunque essa sia. Quindi lei ha ragione, sono stati messi in atto dei grandi inganni generali, quindi siamo portati a pensare comunque dietro ogni realtà ci possa essere un complotto. Lei ha ragione, è che il lavoro di fatica e di difficoltà cercare di capire, di favorire chi ci dà delle fonti attendibili, ci dà delle prove sicure su quello che è stato un grande inganno politico, un inganno strategico, un inganno internazionale, in realtà con gli stessi strumenti capire sul nascere, se possibile, quando l'inganno è palesemente una bufala, come la storia del 5G che attiva il Covid. Cristiano, provincia di Vicenza. Coletti. Guardi, secondo me uno dei problemi principali è che internet dà l'illusione della conoscenza. Leggi due cose e poi pensa di saperle, ok? La realtà è percettiva, quindi facilmente influenzabile da questa illusione di conoscenza, e qui si innesta benissimo la menzogna realistica. Basta che assomigli alla realtà, basta che sia credibile, perché noi pieghiamo facilmente quello che vogliamo credere, pieghiamo la verità verso quello che vogliamo credere, i nostri interessi, per trovare conferma di quello che diciamo. Sì, l'abbiamo detto all'inizio, si chiama il bias cognitivo, così noi ci piace pensare quello che ci fa star bene pensare, e quindi io sono più propenso a dare credito senza dovermi informare o cercare prove a qualcosa che soddisfa il mio pregiudizio, piuttosto qualcosa che mi mette in crisi il mio convincimento. Ma è peraltro vero che la rete è usata in maniera subdola molte volte, le campagne sui social per influenzare il pensiero, per denigrare le persone, per distruggere la credibilità e la dignità di esseri umani, fanno parte comunque dell'uso distorto della rete, che nasce con altri intenti. Stefano da Milano. Sì, salve Giannino, ah Nicoletti. Salve, dica amico. L'ho fatto apposta, volevo sentirla fare il Giannino. Lo so, io volevo dire, secondo me il complottismo è una condizione dell'anima, perché quando uno è complottista su tutto. Io ho un amico. Quindi che sospetta lui anche del racconto che gli fa la moglie o il marito: sono andato a prendermi una birra con gli amici. Esatto, sei complottista, esatto, complottista. Sì. Però ciò non toglie che la storia è fatta di grandi complotti, ecco. E sarà la grande battaglia che dovremo combattere da qui all'eternità, mi sa tanto, ecco, insomma. Questo grazie perché... Stefano. Allora chiudo con il collega Puente che ci ha ascoltato fino adesso. Ecco, è possibile trovare una linea di discrimine? Questo poi è il tuo lavoro e anche la tua difficoltà, fra quello che realmente c'è stato anche nella storia recente di come macchinazione atta a muovere l'opinione pubblica o a creare consenso o a creare discredito nei confronti di altri stati, di nemici, di posizioni ideologiche, e quelli che sono questi piccoli folcloristici complotti. È una linea un po' difficile, sei un equilibrista sempre sul filo, muovendoti fra realtà da svelare e realtà naturalmente totalmente fantasiose. Guarda, per quanto riguarda il mio lavoro è un impegno abbastanza gravoso, perché ti trovi di fronte a situazioni in cui non sai a volte dove andare a parare. Cioè ci sono delle situazioni tipo, mi ricordo c'era un finto omicidio di una persona in Ucraina che è avvenuto neanche qualche anno fa, che era stato fatto apposta per catturare quelli che lo volevano uccidere, però intanto l'opinione pubblica internazionale era convinta che era stata uccisa questa persona. Quindi mi confermi, e la sigla ci porta via, Davide, mi dispiace proprio, mi confermi che è un lavoro molto difficile, richiede una grande tensione e un grande senso etico quotidiano. Grazie a tutti, alla prossima.